Capitolo 3. Il tiranno. Montagnana, primavera, 2242. Ezzelino III da Romano non era come Milo se lo era immaginato. Nelle notti passate sulle torri di guardia, ascoltando i mercanti che parlavano sottovoce nelle taverne, il ragazzo si era costruito nella mente un mostro, qualcosa di enorme e deforme, con gli occhi di brace e la voce del tuono. Un orco da leggenda. L'uomo che vide entrare in città la mattina dopo l'incendio era invece di statura media, asciutto, con i capelli scuri striati di grigio e una barba curata. Cavalcava un cavallo nero senza fronzoli né decorazioni eccessive. Indossava una veste da viaggio ancora polverosa, come se la battaglia della notte precedente fosse stata per lui una faccenda ordinaria. Ma erano gli occhi che colpivano. Gli occhi di Ezzelino erano scuri e immobili, con uno sguardo che non si posava sulle cose, ma le attraversava, come se ciò che vedeva fosse già stato valutato, pesato e classificato prima ancora di essere guardato davvero. Non erano occhi crudeli, nel senso che Milo aveva immaginato. Erano qualcosa di peggio. Erano occhi indifferenti. «Non muoverti», soffiò Bertone all'orecchio del ragazzo, stringendogli il braccio con una mano che aveva la forza di una morsa. Milo non si mosse. Tra i prigionieri riconobbe il fornaio della piazza, un uomo di 40 anni che aveva sempre distribuito pane avanzato ai bambini poveri del borgo. Camminava a testa alta, con un taglio sulla fronte ancora fresco, ma senza tremare. Qualcosa si contrasse nel petto di Milo, come un pugno chiuso. Ezzelino non era un signore che urlava e distruggeva per il gusto di farlo. Era peggio, era metodico. Nelle prime settimane fece censire ogni casa, ogni bottega, ogni granaio. Impose tributi precisi, calcolati con la fredda logica di chi conosce il confine oltre il quale i popoli si ribellano per fame e quello prima del quale si rassegnano per abitudine. Chi obbediva veniva lasciato in pace. Chi resisteva spariva. La bottega di Corrado fu requisita per produrre ferri di cavallo e punte di lancia per le truppe del Romano. Il padre di Milo lavorava adesso per il nemico, con le stesse mani con cui aveva forgiato i ferri per i soldati di Montagnana. Non disse niente la prima mattina che aprì la bottega sotto il nuovo regime. Accese il fuoco, prese il martello e cominciò a battere il ferro come sempre. Ma la sera restava in silenzio per un tempo così lungo che sembrava aver dimenticato come si parlava. Una notte Milo sentì la voce di Ezzelino attraverso una porta socchiusa. «I lavori sul mastio procedono». Era la voce di Ezzelino, bassa e precisa come il ticchettio di un orologio. «Procederanno più veloci se avremo altri uomini, signore. Allora prendete gli uomini che vi servono. Montagnana deve diventare inespugnabile. Non voglio che ciò che è caduto una volta possa cadere di nuovo. Il castello sarà la nostra rocca in queste terre. Alto, solido, visibile da ogni angolo della pianura. Affinché chiunque guardi queste mura sappia che il Romano è qui e che il Romano resta. E la popolazione? Un silenzio breve, quasi impercettibile. La popolazione lavora. Questo è tutto quello che deve fare. Milo si allontanò silenzioso nel buio del cortile. Capiva adesso cosa significava davvero essere conquistati, essere ridotti a forza lavoro, a ingranaggi in una macchina che altri governavano. «Aspetto», disse sottovoce, «a nessuno e a tutti, ma non dimentico». Le stelle non risposero, ma le mura bruciate sembravano ascoltare, e nel loro silenzio c'era qualcosa che assomigliava a una promessa.